storte, ora sono il più forte. E le cirone della merda, io ho già aperto le porte. Parole e ti stendo, non rompermi il cazzo, adesso ti offendo con le mie parole, ti stendo, non parlo più, ora offendo, sparo le parole e ti stendo, non rompermi il cazzo, adesso ti offendo con le mie parole, ti stendo, non parlo più, ora offendo. Come un gladiatore combatto nell'arena della scena del commerciale in generale, spezzo la catena in una maniera oscena. Chiamami Blinsky, chiamami Iena. Non sono un'anima in pena, ma l'uomo ombra. Tu sei sulla cresta dell'onda, ma prima o poi la barca che ti sei costruita affonda assieme a tutti i tuoi passeggeri. E se mi rompi il cazzo non ci stanno problemi. Sono un emarginato che esce dagli schemi. Non mi freni, non mi freghi, non mi prendi, adesso scendi. Butta in mare la sciluppa di salvataggio, perché i balordi sono pronti per l'adembaggio e per fare la festa a te a tutto il tuo equipaggio. Peggio del mucchio selvaggio, non pararti il culo con ostaggi perché sparo all'ostaggio. Sì, sentenza, sparo all'ostaggio. Sparo le parole e ti sento. Non rompermi il cazzo, adesso ti offendo. Con le mie parole ti stendo. Non parlo più, ora offendo. Sparo le parole e ti stendo. Non rompermi il cazzo, adesso ti offendo. Con le mie parole ti stendo. Non parlo più. Sono scomparsi in azione, di missione, armati di parole, di rancore, di umiliazione, di punizione esemplare, soluzione finale quando ha a che fare con le psiche, fa il fenomeno da baraccone in televisione e sul palco mi fa cagare, il motivo è sempre buono per attaccare, ho scelto la strada della grana, della puttana, del successo, nel nostro mondo non sei ammesso, nelle tue parole non trovo nessun nesso, con le mie invece mi sono compromesso. Ci ha previsto le tue prossime mosse. Hai fatto i conti senza l'oste. Hai toccato il fondo. Impara a stare al mondo, perché adesso mi riprendo ciò che è mio. Hardcore come un figlio libero del Rio. Sparo le parole e ti stendo. Non rompermi il cazzo, adesso ti offendo. Con le mie parole ti stendo. Non parlo più, ora offendo. Sparo le parole e ti stendo. Non rompermi il cazzo, adesso ti offendo. Con le mie parole ti stendo. Non parlo più, ora offendo. E fuori dalla mia strada, questo figlio di puttana. E fuori dalla mia strada, questo figlio di puttana. E fuori dalla mia strada, questo figlio di puttana. La tigre è uscita dalla tana, sta venendo a prenderti, questo figlio di puttana.